Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buona settimana. Siamo in compagnia di Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occuperemo oggi. Cervello, mantienilo in forma. Occhio alla pianta, a volte può essere pericolosa. Consigli per le unghie fragili. Volevamo vivere più a lungo e ci hanno accontentati, la vita media si è allungata, ma volevamo anche vivere bene, goderci quegli anni in più. Insomma, il nostro obiettivo non era solo quello di aggiungere anni alla vita, ma anche vita a quegli anni, o no? Per apprezzarli, goderli, ricordarli. Bene, cari amici, sembra un po' la storia della bicicletta. Chi l'ha voluto in questo caso, a chi per una serie di coincidenze, di geni, fortune, stile di vita è toccata in sorte, adesso conviene, anzi tocca pedalare, cioè aggiungere qualità. Questo succede per tutte le parti del nostro corpo e anche e soprattutto per il cervello, di cui ci occuperemo oggi insieme al professor Alberto Albanese, direttore della prima neurologia all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e professore di neurologia all'Università Cattolica. Professore, bentornato e grazie. Buongiorno. Professor Albanese, rispetto agli altri organi, il cervello ha delle caratteristiche particolari e guai se così non fosse. Credo che possiamo partire da qui, da come è fatto e da come funziona, per poi capire cosa gli fa bene e cosa non gli fa bene. Ci sono anche tanti luoghi comuni su di lui e tante cose che si davano per certe sono state poi smentite dalla ricerca. Sì, dietro la parola cervello ci sono tantissime funzioni, quindi è una struttura che appare unica ma è modulare, è costruita in modo da fare tante cose al tempo stesso e quindi diverse parti del cervello operano contemporaneamente compiti diversi, il pensiero, il movimento, l'analisi dei dati dell'ambiente e quindi il cervello lavora in maniera difforme e in maniera continua, questa è un po' la sua peculiarità. Per questo il suo invecchiamento non è necessariamente un invecchiamento omogeneo. Ecco, ma professor Albanese, da quando il cervello inizia a invecchiare? Cosa succede? Perché vorrei capire se un cervello di una persona anziana è necessariamente un cervello meno, me lo faccia mettere tra virgolette, funzionante rispetto a quello di un giovane o invece è un cervello che viene utilizzato in modo diverso? Beh, il cervello è un computer con una caratteristica meravigliosa che è la plasticità. La plasticità è la capacità di acquisire nuove caratteristiche, nuove capacità e quindi di aggiornarsi continuamente. Questa la mantiene per tutta la vita. Il cervello è sempre plastico. Naturalmente il cervello di una persona giovane è più plastico, mentre il cervello di una persona anziana è più stratificato perché si sono accumulati strati di esperienza e di acquisizioni anche di memoria di tutti i generi che si sono stratificate e quindi il cervello della persona anziana è più solido, come dire, più statico rispetto a un cervello giovane, però mantiene le sue capacità di plasticità. Quando noi parliamo di invecchiamento viene immediato pensare, immaginare la pelle che si segna e questa proprio è l'espressione più evidente del tempo che passa, ma per la pelle c'è modo di rallentare questo processo, ci sono ad esempio le creme antirughe, no? Da usare ancora prima che si formino e poi nel caso la medicina estetica. Se al nostro cervello vengono le rughe noi non lo vediamo, ma sicuramente è preferibile avere la pelle un po' segnata e il cervello vispo che viceversa, almeno questo è quello che vorremmo, professor Albanese. Ormai lo vediamo anche, nel senso che con le indagini di neuroimmagini che ci sono oggi lo vediamo se c'è un po' di atrofia, se il cervello è un po' raggrinzito, ovviamente non lo vediamo con gli occhi ma lo vediamo in maniera indiretta. Il paragone è calzante, il cervello, tutti i nostri organi invecchiano e la pelle è quello più visibile. La differenza forse principale è che mentre nel caso della pelle le cause sono piuttosto esterne, per esempio se la pelle è esposta al sole ovviamente si consuma prima, invecchia prima e quindi noi potremmo differenziare le parti esposte dalle parti non esposte, per il cervello è la sua attività interna che lo differenzia, quindi questi moduli diciamo cerebrali che lavorano continuamente in maniera diversa, difforme l'uno dall'altro, possono invecchiare in maniera diversa e questa è un po' la caratteristica, per questo le malattie degenerative colpiscono uno o più moduli del cervello in maniera selettiva. Però noi abbiamo degli alleati, professore, per mantenere il cervello adatto a farci vivere bene. Ci sono anche delle cose da fare, delle cose da evitare. Quindi oggi, tornando alla nostra bicicletta, daremo i fondamentali per una buona pedalata. Naturalmente sottolineeremo anche, con l'aiuto del professor Albanese, degli aspetti che non vanno trascurati, soprattutto quando noi veniamo a contatto, oppure i nostri familiari anziani. Noi tante volte diciamo ha cambiato carattere, ma insomma invecchiando certo non si migliora. Ecco, alcuni segnali che non vanno trascurati, anche dei nostri dubbi. Tante volte noi diciamo: sono stressato, non mi ricordo più le cose, faccio fatica a memorizzarle, perdo il filo del discorso. Sono campanelli d'allarme? Lo scopriremo. Se volete scoprirlo con noi, chiamateci all'800 24 0024, o scriveteci un messaggio al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso diamo un occhio alle nostre piante. Da loro infatti arrivano dei pericoli insospettabili. Questo è l'avviso del Centro Antiveleno della Fondazione Maugeri di Pavia. Insomma, da preziose alleate nell'arredo di case, terrazze e giardini a possibili pericoli. Scopriamo allora quali piante possono in qualche modo nuocere al nostro benessere e alla nostra salute, insieme alla dottoressa Sara Vecchio. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Medico tossicologo al Centro Antiveleni di Pavia. Allora dottoressa, chi non piace, no, abbellire la casa o il proprio terrazzo, per chi ne ha la possibilità, con delle belle piante colorate? Penso ai ciclamini, che hanno aggiunto colore ai nostri inverni, oppure al glicine che sta fiorendo ora, oppure ai ranuncoli che fanno così l'effetto un po' prato, no? Primavera. Però voi mettete in guardia soprattutto per i bambini. Perché, professoressa, dottoressa? Perché in effetti alcune delle piante che abbiamo normalmente in casa o in giardino sono in realtà potenzialmente pericolose, perché tossiche sia per contatto cutaneo che per ingestione. Il nostro centro antiveleni, che è il Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, fornisce ogni anno più di 200 consulenze all'anno in merito appunto ad intossicazioni da piante, e quasi la metà riguarda appunto i bambini sotto i 10 anni e un quarto bambini sotto l'anno di età, perché proprio i più piccoli sono portati a mettere in bocca e sono quando attratti. Si dice ha mangiato la foglia, esatto. In questo caso è proprio vero. Esatto, la foglia, la bacca, il fiore colorato. Per fare qualche esempio, piante d'appartamento che sono dotate di tossicità locale, che quindi sono fortemente irritanti sia per contatto con la cute che per ingestione, sono l'anturium, la diffenbachia, il ficus beniaminus, oppure la classica stella di Natale che tutti abbiamo in casa in quel periodo. Certo. E i sintomi in questo caso vanno dal semplice bruciore o arrossamento della pelle fino alla comparsa di vomito e dolori addominali anche importanti quando vengono ingerite. E lì è proprio colpa della pianta. Per cui in questi casi cosa bisogna fare, dottoressa? Andare subito al pronto soccorso? Allora, diciamo che in caso di contatto con la cute può essere sufficiente esporre la parte interessata sotto il getto dell'acqua corrente per qualche minuto e poi proteggere con un panno pulito. Se questo non dovesse bastare, allora è meglio rivolgersi al proprio medico o direttamente al centro antiveleni, che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Se invece il bambino ha proprio mangiato la foglia, come dicevamo, esatto, o la bacca? Ecco, ci sono sicuramente piante che danno una tossicità più importante se ingerite, sono le piante a cosiddetta tossicità sistemica, per cui contengono dei principi attivi che una volta ingeriti manifestano la loro tossicità a carico di diversi organi, ad esempio il gelsomino, il giacinto, il ranuncolo, l'edera, l'ortensia. In questo caso assolutamente non somministrare latte o altri rimedi, non indurre il vomito, e non aspettare che compaiano i sintomi, che possono essere anche tardivi, ma rivolgersi subito ad un centro antiveleni o al pronto soccorso più vicino. Dottoressa, usciamo di casa, usciamo anche dal nostro terrazzo, adesso sarà tempo, speriamo, di scampagnate, e anche lì il rischio è di scambiare magari una fogliolina per una pianta commestibile, magari da buttare nell'insalata, invece è qualcosa di veramente pericoloso. In effetti i quadri clinici più gravi da intossicazione da veleni vegetali derivano proprio dall'errato consumo di piante che vengono raccolte nei prati e nei boschi perché sono confuse con piante commestibili. Per fare qualche esempio, la digitale, che ha una tossicità cardiaca molto importante, o la mandragola, possono essere confuse con la borragine, che invece è una pianta commestibile molto diffusa, oppure la cicuta è stata raccolta e consumata perché è confusa con il finocchietto selvatico. Quindi in questi casi, cioè non improvvisiamoci, possiamo dire così. No, ecco. Come succede per i funghi, d'altronde in autunno non bisogna improvvisarsi esperti, lo stesso per le piante, perché sembrano tutte uguali, ma non lo sono. Assolutamente no, e le conseguenze possono essere molto gravi. Grazie dottoressa per essere state con noi, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Pronto soccorso. Quindi usiamo la testa, soprattutto nella raccolta delle piante, ma noi torniamo ad occuparci della testa, del nostro cervello in particolare. Professor Albanese, quando noi parliamo di cuore, diciamo che è il motore del nostro organismo. Il cervello che cos'è? Lei ha detto che è un grande computer, no? Sì, il cervello è un computer che controlla tutte le attività, sia quelle esterne che quelle interne, e gestisce una quantità di dati impressionante e si adatta continuamente ad ogni situazione, e al tempo stesso è un organo biologico che quindi vive la vita di tutto il resto dell'organismo. Però, professore, come in ogni macchina, un pezzo funziona anche e se soprattutto gli altri funzionano bene. Stessa sorte capita al cervello, che per funzionare bene deve essere anche aiutato e supportato. Mi vengono in mente ad esempio le carotidi, no? Devono essere ben funzionanti. Sì, noi sappiamo ormai che ci sono dei fattori di rischio abbastanza riconosciuti per le malattie neurologiche, io mi riferisco in particolare a quelle degenerative, e anche il rischio circolatorio, quindi la disfunzione circolatoria, quindi le carotidi o comunque altre malattie circolatorie sono un fattore di rischio per la degenerazione. Se comunque non c'è un'irrorazione adeguata anche ai bisogni e variabile in base ai bisogni, i neuroni soffrono e hanno una probabilità statistica maggiore di degenerare. E così come la dieta è un altro fattore importante, così come l'attività fisica è un altro fattore importante che può prevenire o se manca può rendere più probabile una sofferenza, un invecchiamento precoce di parti del cervello. Rina ci chiama da Vicenza, buongiorno a lei. Rina, buongiorno. Buongiorno, posso parlare col professore? Certo. Allora, volevo dirle, ho 65 anni. Sì. E a volte ho la persona davanti che la conosco molto bene, può essere anche mio figlio, non mi viene il nome. Mentre i numeri telefonici me li ricordo sempre tutti. Può succedere anche altre cose, non solo il nome, a volte succede, devo dire una parola, qualcosa non mi viene subito. È lì sulla punta della lingua ma non arriva. Professor Albanese, è abbastanza frequente questo problema? Sì, questo è un esempio di quello che dicevo del funzionamento modulare. Probabilmente la signora, come tanti, in quel momento non riesce a recuperare ciò che cerca, perché probabilmente il suo cervello, quella parte del suo cervello, sta svolgendo altri compiti. Non sembra un deficit in senso neurologico, nel senso di cui ci occupiamo noi, una perdita di funzioni, ma piuttosto una occupazione di funzioni diverse da quella che lei in quel momento magari vorrebbe svolgere. Quindi non dobbiamo preoccuparci? No, direi di no. Camillo ci chiama dalla provincia di Salerno. Buongiorno Camillo. Sì, buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Niente, io volevo fare una domanda forse un po' banale. In effetti ho, diciamo, da quando studio, da quando diciamo uno è adolescente, io ho 35 anni, sì. Anche se ho materie di sono appassionato, non riesco mai a memorizzare dati o a ricordare a distanza di un mese o di sei mesi, che ne so, appunti di storia o di politica. Cioè, è un fatto, è un segnale negativo sicuramente. Volevo sapere se c'era rimedio a questo. Professor Albanese, la memoria facilecca ogni tanto, sì, no? Ci sono persone che hanno più memoria, persone che hanno meno memoria, La memoria più si esercita più migliora, e soprattutto nelle fasi diciamo giovanili di vita, e quindi non è un qualcosa di determinato in maniera assoluta, però sicuramente alcune persone ne hanno di più, altre ne hanno di meno, alcune hanno degli stimoli che aiutano a ricordare l'evento più visivi, altri degli stimoli diversi. La memoria è una funzione molto complessa e anche molto affascinante. E in parte questo è dovuto all'ereditarietà, sicuramente ci sarà qualche antenato, magari un genitore che avrà le stesse caratteristiche di memoria che ha la persona che ha chiamato. Professor Albanese, noi oggi vogliamo parlare di prevenzione e credo sia importante introdurre due concetti che sentiamo spesso nominare quando si parla di cervello: riserva cerebrale, riserva cognitiva, perché si è visto che l'invecchiamento non è un processo a senso unico, ma è il risultato di un equilibrio. Su un piatto della bilancia mettiamo la riserva cognitiva con i fattori protettivi che la possono potenziare, dall'altro invece i fattori di rischio che la possono mettere in difficoltà. Allora, ci spiega queste due riserve in che cosa consistono? Sì, i fattori di rischio sono quelli che dicevo prima, il cervello, se viene sottoposto a stress, che in questo caso derivano dall'organismo stesso, può soffrire, i suoi neuroni possono accumulare sostanze ossidate e quindi avere un metabolismo meno brillante, e quindi quando vengono richieste delle funzioni extra a questi neuroni, che devono quindi essere più attivi, possono andare in crisi perché non hanno le risorse per essere più attivi, e da lì può partire una curva drammatica che porta alla degenerazione di quella cellula o di quella famiglia di cellule. Quindi sicuramente l'uso che si fa del cervello è importante rispetto alla sua durata e alla sua capacità diciamo di funzionare nel tempo. E detto questo, poi c'è il fatto che più si usa bene il cervello, più si ha la possibilità di potenziarne le funzioni, perché c'è un po' come succede con i muscoli, no, professor Albanese? Molto simile, si crescono proprio delle particelle, dei neuroni si sviluppano, delle parti anche fisiche misurabili, delle spine dendritiche, quindi si potenziano i contatti tra i neuroni. Bisogna limitare i fattori di rischio, per esempio la inattività fisica è un fattore di rischio, l'obesità è un fattore di rischio, una certa predisposizione genetica intesa come genetica debole, cioè predisposizione, non genetica deterministica, quindi una genetica derivata da una certa propensione del nostro cervello ad avere delle labilità, quindi dei punti più deboli così come dei punti più forti. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio importante che può minare la funzione cerebrale, l'iperlipidemia, il diabete, i traumi possono ridurne le funzioni, anche il livello educativo. Noi sappiamo che più si studia, più si tiene attivo il cervello anche in senso di formazione, più longevo sarà questo cervello. Quindi tanti aspetti che messi insieme fanno il mosaico della buona longevità, ecco. Allora restate per parlare con noi del vostro cervello, se vi dà qualche problema, se ogni tanto la vostra memoria facilecca, se avete dei dubbi. Restate anche se avete un familiare che ha una malattia neurodegenerativa, e soprattutto se notate nei vostri genitori, nei nonni dei vostri bambini, dei vostri parenti, dei segnali sospetti. Spesso, come abbiamo detto tante volte, si dice: ma saranno gli anni, sarà stanco, è anziano, è peggiorato con l'età. Sarà vero? Cervello, istruzioni per l'uso. Riprendiamo il tema di oggi. 824 0024 è il nostro numero verde. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Albanese. Professore, lei ha detto che una vita ricca, piena di stimoli e di interessi, è in qualche modo protettiva. Anche l'istruzione, il grado di istruzione sicuramente gioca a favore, ma spesso una vita attiva è anche una vita stressante. Tutti ci ricorderemo, no, di quella pubblicità che diceva il logorio della vita moderna. Si riesce a trovare un punto di incontro tra il fare molto per il nostro cervello, per mantenerlo comunque vispo e vivace, nello stesso tempo non stressarlo troppo, perché i mille impegni alla fine lo affaticano, no? Almeno noi abbiamo questa impressione. Sì, questa è l'arte di vivere che ciascuno di noi poi realizza in maniera piuttosto soggettiva. Comunque è vero questo, è vero che lo stress può essere positivo entro certi limiti perché è uno stimolo, può essere uno stress assolutamente stressante, quindi negativo, qualora diventi una serie di obbligazioni alle quali non riusciamo a star dietro. Certamente poi ci sono tante sostanze che adesso vengono ipotizzate o propugnate per aiutare il cervello, dagli antiossidanti, una serie di vitamine, e poi in futuro ce ne saranno ancora di più, anche con possibilità di somministrazione più interventista, magari addirittura endocranica in alcuni casi per alcuni fattori trofici. Quindi in realtà c'è tutto un mondo che si rivolge a combattere l'invecchiamento, in particolare l'invecchiamento cerebrale. Vorrei rispondere ad alcuni sms, quello di Marco che ci scrive: mio padre si vuole iscrivere all'università della terza età, ma soffre di mancanza di memoria avendo 78 anni, secondo voi fa bene? Vede, anche Marco dice, 78 anni è normale dimenticarsi qualche cosa, è normale, professore? E poi sì, fa bene a inserire, quindi a frequentare un corso che accende i suoi interessi, lo rimetta di nuovo alla prova, in gioco? Sì, assolutamente sì, ovviamente se ha dei dubbi, se ci sono dei dubbi può essere valutata questa memoria, ma se si tratta di una deficit di memoria, come dire, generico e non particolarmente rilevante sul piano neurologico, sicuramente può addirittura migliorare con degli stimoli nuovi. Bruno ci scrive: cosa ne pensa lei dei videogiochi per allenare il cervello? Io personalmente non li amo perché sono troppo basati su stimolo e riflesso, su azioni riflesse. È molto più utile per il cervello cimentarlo con dei giochi di strategia o dei giochi di pianificazione. Invece gli scacchi, ci scrive ottimo, Alberto. È un gioco di strategia, infatti. Andiamo da Maurizio che ci chiama da Arezzo. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Lei si è ricordato subito il nostro numero verde, quindi la sua memoria funziona. Questo no, no, è che ho avuto un incidente 8 anni fa e ho una lesione frontale alla testa e ho una lesione di 3 cm x 2. Sì. E in pratica mi hanno detto mi prende carattere, comportamento e memoria. Sì. Però io la memoria l'ho un po' persa. E il carattere come va, Maurizio? Ma insomma, diciamo abbastanza bene. Professor Albanese. Sì, e questo è uno di quei esempi, parlavamo prima dei traumi come causa di sofferenza cerebrale. In questo caso, se c'è una lesione fisica, sicuramente avranno fatto un bilancio di quali sono stati i problemi conseguenti a questa lesione e anche ci sono anche strategie di recupero, quindi anche di tipo neuropsicologico, riabilitazione cognitiva, ci sono diverse iniziative che si possono prendere per aiutare il cervello a recuperare nei limiti del possibile. Un po' come si fa, no? Con la riabilitazione in seguito ad un intervento chirurgico, magari, no? Per il menisco, sì, i legamenti crociati, funziona più o meno allo stesso modo, naturalmente, sì, con altri strumenti, ma il principio è quello. Sfruttiamo le capacità delle aree intatte, cerebrali, di supportare, di sopperire la funzione che è stata perduta dalla lesione. Professore, noi abbiamo parlato di stress, io vorrei invece parlare di depressione, perché il periodo, la depressione in qualche modo fa invecchiare più precocemente il cervello, è vero? E può dare anche l'impressione di avere poca memoria, può dare anche quell'immagine di retrazione che talora si vede nelle persone anziane. La depressione può essere molto strisciante, può passare inosservata e essere quindi interpretata come una perdita di capacità anche di tipo di funzioni cerebrali, quindi è un aspetto importante la depressione che va valutato. Torniamo al parallelo della nostra bicicletta e ai suoi fondamentali. Ebbene, proprio ricordare che l'attività fisica insieme ad una dieta equilibrata, il professor Albanese l'ha già anticipato, sono alleati per un buon invecchiamento del nostro cervello. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, bentornato. Buongiorno a tutti quanti voi. Allora, pedaliamo, noi stiamo bene, insomma cerchiamo di invecchiare bene, questo che vogliamo, aggiungere qualità a questi anni che abbiamo in più. Io direi di partire dall'attività fisica, tante volte l'abbiamo paragonata come un farmaco naturale, eccetera, però fa bene anche al nostro cervello, perché? Ma fa bene al nostro cervello e lo dimostrano anche ricerche recenti, una proprio del gennaio di quest'anno su riviste importanti, perché migliora sicuramente l'afflusso di sangue al cervello, quindi diciamo controlla un po' quei disturbi legati ad una diciamo scarso afflusso di sangue e di ossigeno al cervello, quella che si chiama declino cognitivo vascolare. Sì. E quindi in questo senso garantisce una migliore performance cognitiva, una migliore performance cerebrale, perché l'attività fisica in generale si associa anche a degli stili di vita, dei comportamenti per altre cose, tutte orientate verso una migliore condizione generale di salute. E quindi anche da un punto di vista cardiocircolatorio più positive. Ecco, professore, io vorrei però lanciare un appello anche alle persone anziane che magari non sono state allevate alla cultura dell'attività fisica, dell'esercizio fisico. Hanno passato la vita a lavorare e adesso dicono, beh, ormai sono anziano e quel che fatto è fatto. Invece può essere importante e assolutamente vantaggioso anche nelle persone un po' avanti con gli anni iniziare a fare attività fisica. Non è mai troppo tardi, vero? Non perché il cervello ci guadagna. Non è mai troppo tardi, è proprio negli anziani che si sono viste, diciamo, dei risultati più brillanti dell'efficacia dell'attività fisica nel preservare queste funzioni cognitive. Ci sono molti studi anche per esempio sulla malattia di Alzheimer, soggetti attivi, quanto più attivi lo sono e quanto da più tempo lo sono, ma anche negli anziani sicuramente diciamo la malattia di Alzheimer risulta meno frequente e meno grave come sintomatologia. E l'anziano deve considerarsi ancora a tutti gli effetti valido. Ecco, è questo che dobbiamo fare. Anche da un punto di vista della socializzazione, l'esercizio fisico, oltre ai benefici diciamo fisici proprio sull'organismo, sulle funzioni del nostro organismo, ha anche un effetto positivo dal punto di vista della prestazione psicologica. Chi fa attività fisica socializza di più, vede il mondo in maniera più positiva, si sente ancora motivato a vivere e a vivere bene, si sente partecipe della nostra società, oltre al fatto che la stessa attività fisica migliora la capacità, diciamo, dei nostri neurotrasmettitori, quindi di quelle sostanze che a livello del cervello garantiscono una migliore prestazione. È un toccasana sotto tutti i punti di vista. Facciamolo e facciamolo ognuno con le sue modalità e con i suoi tempi, ma purché regolare nel tempo. Io vorrei parlare anche di dieta, del legame tra dieta e cervello, e prendo spunto da un SMS che mi manda Marco da Pavia. Mi hanno dato una dieta che prevede di eliminare totalmente per un mese carboidrati complessi e semplici, poi tornerei pian piano ad assumerli. Ma i carboidrati non servono anche al cervello? O sentito che rende molto irritabili questa dieta. Professor Michelangelo Giampietro. Beh, allora, se gli hanno prescritto questa dieta per farlo star male, sicuramente otterrà dei risultati. Sì. Se invece il nostro amico Marco vuole stare bene, deve sicuramente fare una dieta di tipo diverso. Mai eliminare o ridurre i carboidrati, né quelli complessi né quelli semplici. Devono essere almeno il 50-60% delle calorie totali giornaliere, a seconda di quanto più o meno esercizio fisico facciamo. Sì. Quelli semplici, gli zuccheri di gusto dolce, non devono essere eccessivi, ma almeno un 10% delle calorie totali giornaliere lo devono fornire, perché il glucosio è il carburante, la benzina specifica delle cellule del nostro cervello, oltre che dei nostri globuli rossi. Lo dimostra il fatto che quando non mangiamo da troppo tempo e mangiamo pochi carboidrati, la glicemia si abbassa, andiamo in ipoglicemia e non riusciamo più nemmeno a tenere gli occhi aperti e a stare in piedi. Certo. Se vogliamo essere brillanti anche da un punto di vista delle nostre facoltà mentali ed essere lucidi, scattanti, vigili, dobbiamo sicuramente avere un buon apporto di carboidrati, meglio quelli complessi insieme a quelli semplici, però qualcosina anche di quelli semplici dobbiamo prenderli. E se mi servisse un aiutino, professor Albanese, ci sono degli integratori, così rispondiamo a tantissimi sms, che aiutano il nostro cervello a funzionare bene negli anni? Io credo che non ci siano sostanze magiche, c'è il buon equilibrio metabolico, per esempio quello di cui si parlava prima della deprivazione dei carboidrati è uno stress metabolico piuttosto forte, quindi questo è proprio lo stress che fa male al cervello, quindi evitare questo e quindi mantenere tutto ciò che serve, che è necessario dal punto di vista dietetico e dei minerali e delle sostanze necessarie all'alimentazione è importantissimo. Poi si possono assumere tanti antiossidanti che sono più o meno alla moda, però in realtà non c'è evidenza che una grande famiglia di antiossidanti, ne hanno provati diversi, che mostrino un miglioramento delle capacità di funzione cerebrale nel lungo termine. E questo quindi rimane un aspetto più così sul credo personale. Un aspetto che non si è toccato, forse che conviene dire, è l'ipotesi che nelle persone anziane vi siano alterazioni immunitarie che sono state descritte negli anziani, che possano essere favorenti la degenerazione del sistema nervoso. Quindi mantenere un buon equilibrio del sistema immunitario sembra essere un buon modo per prevenire le malattie neurodegenerative. Questo è anche abbastanza interessante perché sposta l'attenzione su un equilibrio somatico generale come quello del sistema immunitario, che è piuttosto importante. Professor Gianpietro, ci salutiamo con un'indicazione, col consiglio del giorno per cervelli vispi e scattanti? Un consiglio vecchio ma sempre efficace: la dieta mediterranea, ricca in olio extravergine di oliva, che a sua volta è ricco di antiossidanti, di vitamine e di acidi grassi monoinsaturi, che sono quelli che fanno meglio alla nostra salute e al nostro cervello. Una dieta ricca di prodotti vegetali, non molto alta in termini di calorie, soprattutto man mano che si avanti con gli anni, essere un pochino più attenti a non eccedere con le calorie, con i grassi saturi e con il colesterolo. Per il resto godiamoci la vita facendo anche un po' di attività fisica. Grazie professore per essere stato con noi, buona giornata. A voi. Professor Albanese, abbiamo Marco da Lecco. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda per quanto riguardava l'Alzheimer. Sì. Avendo mio suocero che è deceduto quest'anno all'età di 68 anni di Alzheimer, io ho due bambini piccolini. Volevo chiedere la probabilità o la possibilità che hanno i bambini di ammalarsi anche loro di questa malattia. Professor Albanese. Non deve preoccuparsi, non c'è questo determinismo così netto. E d'altra parte sono malattie piuttosto comuni ormai, le malattie degenerative, e può esserci una predisposizione generica, ma ce ne sono tante altre in ciascuno di noi, e quindi poi bisogna vedere che cosa si realizza in ciascun organismo delle tante predisposizioni che possono essere prese dall'eredità. Professor Albanese, io vorrei tornare a quei segnali che spesso noi trascuriamo, spesso li attribuiamo ad un problema legato dello stress o agli effetti dell'età, no? Lo guardiamo nei nostri genitori che magari sono anziani e non cogliamo i segnali che invece dovrebbero essere riferiti al medico. Vogliamo ricordarne qualcuno? Ad esempio la persona anziana che formula ripetutamente le stesse domande, oppure perde il filo del discorso o non è più capace a svolgere i compiti abituali. Stiamo parlando di persone autonome, ma ci sono dei comportamenti che dovrebbero indurre il figlio a dire: ma forse non è solamente l'età, c'è qualche cosa di più? Sì, ce ne sono tanti e richiedono un po' di esperienza, spesso vengono ricostruiti dai familiari a posteriori, però si può provare a suggerire, si è già detto della memoria, quando la difficoltà di memoria sia evidente, un clamorò comunque in primo piano, oppure le esitazioni, le incapacità a decidere o a orientarsi, o cambiamenti repentini dell'umore o del carattere con uscite, reazioni comportamentali inappropriate, anche magari di breve durata, che possono apparire come magari irraconde o comunque fuori contesto rispetto al momento che si vive insieme, oppure apparenti difficoltà percettive, insicurezze visive che non dipendono da difficoltà della vista. Ci sono tanti piccoli segni che nell'anziano possono accendere campanelli rispetto a delle difficoltà di funzionamento dei sistemi cognitivi. Io, professor Albanese, vorrei aprire una brevissima parentesi sull'uso di sostanze stupefacenti. Abbiamo dei dati, secondo il rapporto 2009 dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, che dicono che sottolineano la diffusione costante della cocaina in 13 milioni di europei, no? Dicono di averla provata almeno nella loro vita. Non se ne parla mai abbastanza, ma io vorrei che lei rapidamente raccontasse, dato che è un problema trasversale, e la cocaina sta diventando veramente così una sostanza a portata di mano di giovani e meno giovani, ci sono manager, ci sono persone assolutamente inserite in contesti lavorativi che la usano come integratore, ecco, che cosa si rischia, professore? Molto, è una piaga quasi invisibile, molto più diffusa di quello che si pensi, e comunque crea alterazioni dei neurotrasmettitori, per cui libera in massa molti neurotrasmettitori. È come se svuotasse le riserve, come se noi avessimo un serbatoio e avessimo una specie di grande tubo che lo svuota rapidamente. Quindi in quel momento abbiamo una gran quantità di funzione cerebrale, perché i neurotrasmettitori sono liberati e quindi svolgono, accelerano le funzioni cerebrali, ma piano piano depletono, rendono più povera la capacità di funzionamento dei neuroni, e sicuramente i danni poi si vedono anche con degli esami che possono essere svolti, con delle risonanze funzionali, e possono arrivare a diventare dei danni anche irreversibili, morfologici, sì, irreversibili, piuttosto impegnativi. Si può dire la stessa cosa dell'alcol? Si può dire la stessa cosa dell'alcol, ma è meno potente ed è più consono alla nostra cultura, perché naturalmente in tutte le droghe vanno inserite nella cultura in cui si sviluppano. Sull'alcol c'è una tradizione millenaria di convivenza con l'alcol, per cui entro certi limiti l'alcol è, come dire, abituale. Naturalmente poi la dipendenza dall'alcol è un problema importantissimo, ma non è così potente come la cocaina, è lì la differenza. Professor Albanese, grazie davvero per essere stato con noi, per averci dedicato il suo tempo e per aver messo a disposizione la sua competenza. La saluto, la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie. E il consiglio di chiusura di oggi è dedicato a chi ha le unghie fragili, un problema abbastanza comune e direi di stagione. In linea con noi abbiamo la dottoressa Sandra Lorenzi, che è direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti. Primavera e unghie fragili, eh? È un binomio quasi, insomma, uno se lo aspetta. Ma che cosa si può fare? Ci sono dei rimedi anche casalinghi? Prima di dire se il problema persiste, consultate il dermatologo? Certo, cioè. Allora, prima di tutto, se il problema persiste, consultate il dermatologo, perché vorrei solo ricordare che la fragilità ungueale può essere anche la spia di problematiche più serie, come certo, carenza di ferro, patologie sistemiche legate alla tiroide, quindi attenzione, ricordatevi sempre che la gravità del quadro clinico può essere correlata anche a una patologia più complessa. Detto questo? Detto questo, diciamo così, che chiaramente se siamo a casa, se siamo delle casalinghe o più o meno casalinghe, ricordatevi sempre di usare i guanti. Mi raccomando, proteggetevi dall'acqua, perché l'acqua disidrata la lamina ungueale e tende ad peggiorare la secchezza, ok? E sia l'idratazione, idratazione continua, meglio con pomate ricche in urea che hanno un'azione emolliente, idratante sulla lamina ungueale, no? Gli smalti indurenti, ricordatevi che l'acetone peggiora e aggrava la disidratazione della lamina. E inoltre esistono anche degli idratanti topici in formulazione di lacche che si trovano nelle farmacie, che hanno la comodità di poter essere rimossi con il risciacquo delle mani con acqua. Magnifico, grazie dottoressa Lorenzi, grazie per essere stata con noi. Ci sentiamo presto per una puntata tutta dedicata alle unghie. Intanto buona giornata alla dottoressa Lorenzi, buona giornata soprattutto a voi che ci avete seguito, e vi do appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11. Se volete io sono qua, vi aspetto.